Fuori della baracca si sentiva il campo in insolita agitazione. Uno dei due ungheresi si alzò, uscì e tornò dopo mezz'ora carico di stracci immondi. Doveva averli sottratti al magazzino degli effetti da passare alla disinfezione. Lui e il suo compagno si vestirono febbrilmente, indossarono stracci su stracci. Si vedeva che avevano fretta di mettersi davanti al fatto compiuto, prima che la paura stessa li facesse recedere. Era insensato pensare di fare anche solo un'ora di cammino, deboli com'erano, e per di più nella neve, e con quelle scarpe rotte trovate all'ultimo momento. Tentai di spiegarlo, ma mi guardarono senza rispondere. Avevano gli occhi come le bestie impaurite. Solo per un attimo mi passò per il capo che potevano anche aver ragione loro. Uscirono maldestri dalla finestra, li vidi, fagotti informi, barcollare fuori nella notte. Non sono tornati. Ho saputo molto più tardi che, non potendo proseguire, furono abbattuti dalle SS poche ore dopo l'inizio della marcia. Anche per me ci voleva un paio di scarpe, era chiaro. Pure ci volle forse un'ora perché riuscissi a vincere la nausea, la febbre e l'inerzia. Ne trovai un paio nel corridoio. I sani avevano saccheggiato il deposito delle scarpe dei ricoverati e si erano prese le migliori. Le più scadenti, sfondate e spaiate, giacevano in tutti i canti. Proprio là incontrai Cosman, un alsaziano. Era da civile, corrispondente della Reuter a Clermont-Ferrand. Anche lui eccitato ed euforico. Disse: «Se dovessi tu ritornare prima di me, scrivi al sindaco di Metz che io sto per rientrare». Cosman aveva notoriamente conoscenze fra i prominenti, perciò il suo ottimismo mi parve un buon indizio e lo utilizzai per giustificare davanti a me stesso la mia inerzia. Nascosi le scarpe e ritornai a letto. A tarda notte venne ancora il medico greco con un sacco sulle spalle e un passamontagna. Gettò sulla mia cuccetta un romanzo francese. «Tieni, leggi, italiano. Me lo renderai quando ci rivedremo». Ancora oggi lo odio per questa sua frase. Sapeva che noi eravamo condannati. E venne finalmente Alberto, sfidando il divieto, a salutarmi dalla finestra. Era il mio indivisibile. Noi eravamo i due italiani, e per lo più i compagni stranieri confondevano i nostri nomi. Da 6 mesi dividevamo la cuccetta e ogni grammo di cibo organizzato extra razione. Ma lui aveva superata la scarlattina da bambino e io non avevo quindi potuto contagiarlo. Perciò lui partì e io rimasi. Ci salutammo, non occorrevano molte parole. Ci eravamo dette tutte le nostre cose già infinite volte. Non credevamo che saremmo rimasti a lungo separati. Aveva trovato grosse scarpe di cuoio in discreto stato. Era uno di quelli che trovano subito tutto ciò di cui hanno bisogno. Anche lui era allegro e fiducioso, come tutti quelli che partivano. Era comprensibile. Stava per accadere qualcosa di grande e di nuovo. Si sentiva finalmente intorno una forza che non era quella della Germania. Si sentiva materialmente scricchiolare tutto quel nostro mondo maledetto. O almeno, questo sentivano i sani che, per quanto stanchi e affamati, avevano modo di muoversi. Ma è indiscutibile che chi è troppo debole o nudo o scalzo pensa e sente in un altro modo. E ciò che dominava le nostre menti era la sensazione paralizzante di essere totalmente inermi e in mano alla sorte. Tutti i sani, tranne qualche ben consigliato che all'ultimo istante si spogliò e si cacciò in qualche cuccetta di infermeria, partirono nella notte sul 18 gennaio 1945. Dovevano essere circa 20.000, provenienti da vari campi. Nella quasi totalità essi scomparvero durante la marcia di evacuazione. Alberto è fra questi. Qualcuno scriverà forse un giorno la loro storia. Noi restammo dunque nei nostri giacigli, soli, con le nostre malattie e con la nostra inerzia più forte della paura. Nell'intero KAB eravamo forse 800. Nella nostra camera eravamo rimasti 11, ciascuno in una cuccetta, tranne Charles e Arthur che dormivano insieme. spento il ritmo della grande macchina del lager, incominciarono per noi i 10 giorni fuori del mondo e del tempo. Il 18 gennaio. Nella notte dell'evacuazione le cucine del campo avevano ancora funzionato e il mattino seguente fu fatta nell'infermeria l'ultima distribuzione di zuppa. L'impianto centrale di riscaldamento era stato abbandonato. Nelle baracche ristagnava ancora un po' di calore, ma ogni ora che passava la temperatura si andava abbassando e si comprendeva che in breve avremmo sofferto il freddo. Fuori ci dovevano essere almeno 20 gradi sotto lo zero. La maggior parte dei malati non aveva che la camicia e alcuni nemmeno quella. Nessuno sapeva quale fosse la nostra condizione. Alcune SS erano rimaste, alcune torrette di guardia erano ancora occupate. Verso mezzogiorno un maresciallo delle SS fece il giro delle baracche. Nominò in ognuna un capo baracca scegliendolo fra i non ebrei rimasti e dispose che fosse immediatamente fatto un elenco dei malati, distinti in ebrei e non ebrei. La cosa pareva chiara. Nessuno si stupì che i tedeschi conservassero fino all'ultimo il loro amore nazionale per le classificazioni, e nessun ebreo pensò più seriamente di vivere fino al giorno successivo. I due francesi non avevano capito ed erano spaventati. Tradussi loro di malavoglia il discorso della SS. Trovavo irritante che avessero paura. Non avevano ancora un mese di lager, non avevano quasi ancora fame, non erano neppure ebrei e avevano paura. Fu fatta ancora una distribuzione di pane. Passai il pomeriggio a leggere il libro lasciato dal medico. Era molto interessante e lo ricordo ancora con bizzarra precisione. Feci anche una visita al reparto accanto in cerca di coperte. Di là molti malati erano stati messi in uscita. Le loro coperte erano rimaste libere. Ne presi con me alcune abbastanza calde. Quando seppe che venivano dal reparto di dissenteria, Arthur arricciò il naso. «Y avait point besoin de le dire». Infatti erano macchiate. Io pensavo che in ogni modo, dato ciò che ci aspettava, sarebbe stato meglio dormire ben coperti. Fu presto notte, ma la luce elettrica funzionava ancora. Vedemmo con tranquillo spavento che all'angolo della baracca stava una SS armata. Non avevo voglia di parlare e non provavo timore se non nel modo esterno e condizionale che ho detto. Continuai a leggere fino a tarda ora. Non vi erano orologi, ma dovevano essere le 23 quando tutte le luci si spensero, anche quelle dei riflettori sulle torrette di guardia. Si vedevano lontano i fasci dei fotoelettrici. Fiorì in cielo un grappolo di luci intense che si mantennero immobili, illuminando crudamente il terreno. Si sentiva il rombo degli apparecchi. Poi cominciò il bombardamento. Non era cosa nuova. Scesi a terra, infilai i piedi nudi nelle scarpe e attesi. Sembrava lontano, forse su Auschwitz. Ma ecco un'esplosione vicina. Prima di poter formulare un pensiero, una seconda e una terza da sfondare le orecchie. Si sentirono vetri rovinare. La baracca oscillò. Cadde a terra il cucchiaio che tenevo infisso in una commessura della parete di legno. Poi parve finito. Cagnolati, un giovane contadino, egli pure dei Vosgi, non doveva aver mai visto una incursione. Era uscito nudo dal letto. Si era appiattato in un angolo e urlava. Dopo pochi minuti fu evidente che il campo era stato colpito. Due baracche bruciavano con violenza, altre due erano state polverizzate, ma erano tutte baracche vuote. Arrivarono decine di malati, nudi e miserabili, da una baracca minacciata dal fuoco. Chiedevano ricovero. Impossibile accoglierli. Insistettero, supplicando e minacciando in molte lingue. Dovemmo barricare la porta. si trascinarono altrove, illuminati dalle fiamme, scalzi nella neve in fusione. A molti pendevano dietro i bendaggi disfatti. Per la nostra baracca non pareva ci fosse pericolo, a meno che il vento non girasse. I tedeschi non c'erano più. Le torrette erano vuote. Oggi io penso che, se non altro per il fatto che un Auschwitz è esistito, nessuno dovrebbe ai nostri giorni parlare di provvidenza. Ma è certo che in quell'ora il ricordo dei salvamenti biblici nelle avversità estreme passò come un vento per tutti gli animi. Non si poteva dormire, un vetro era rotto e faceva molto freddo. Pensavo che avremmo dovuto cercare una stufa da installare e procurarci carbone, legna e viveri. Sapevo che tutto questo era necessario, ma senza l'appoggio di qualcuno non avrei mai avuto l'energia di metterlo in atto. Ne parlai coi due francesi. 19 gennaio. I francesi furono d'accordo. Ci alzammo all'alba, noi tre. Mi sentivo malato e inerme. Avevo freddo e paura. Gli altri malati ci guardarono con curiosità rispettosa. Non sapevamo che ai malati non era permesso uscire dal cabaret, e se i tedeschi non erano ancora tutti partiti. Ma non dissero nulla, erano contenti che ci fosse qualcuno per fare la prova. I francesi non avevano alcuna idea della topografia del lager, ma Charles era coraggioso e robusto, e Arthur era sagace, e aveva un buon senso pratico di contadino. Uscimmo nel vento di una gelida giornata di nebbia, malamente avvolti in coperte. Quello che vedemmo non assomiglia a nessuno spettacolo che io abbia mai visto né sentito descrivere. Il lager, appena morto, appariva già decomposto. Niente più acqua ed elettricità. Finestre e porte sfondate sbattevano nel vento, stridevano le lamiere sconnesse dei tetti, e le ceneri dell'incendio volavano alto e lontano. All'opera delle bombe si aggiungeva l'opera degli uomini, cenciosi, cadenti, scheletrici. I malati in grado di muoversi si trascinavano per ogni dove, come una invasione di vermi sul terreno indurito dal gelo. Avevano rovistato tutte le baracche vuote in cerca di alimenti e di legna. Avevano violato con furia insensata le camere degli odiati Blocheltste, grottescamente adorne, precluse fino al giorno prima ai comuni Häftlinge. Non più padroni dei propri visceri, avevano insozzato dovunque, inquinando la preziosa neve, unica sorgente d'acqua ormai per l'intero campo. Attorno alle rovine fumanti delle baracche bruciate, gruppi di malati stavano applicati al suolo per succhiarne l'ultimo calore. Altri avevano trovato patate da qualche parte e le arrostivano sulle braci dell'incendio, guardandosi intorno con occhi feroci. Pochi avevano avuto la forza di accendersi un vero fuoco e vi facevano fondere la neve in recipienti di fortuna. Ci dirigemmo alle cucine più in fretta che potemmo, ma le patate erano già quasi finite. Ne riempimmo due sacchi e li lasciammo in custodia ad Arthur. Tra le macerie del Prominence Block, Charles ed io trovammo finalmente quanto cercavamo, una pesante stufa di ghisa, con tubi ancora utilizzabili. Charles accorse con una carriola e caricammo. Poi lasciò a me l'incarico di portarla in baracca e corse ai sacchi. Là trovò Arthur, svenuto per il freddo. Charles si caricò entrambi i sacchi e li portò al sicuro. Poi si occupò dell'amico. Intanto io, reggendomi a stento, cercavo di manovrare del mio meglio la pesante carriola. Si udì un fremito di motore ed ecco una SS in motocicletta entrò nel campo. Come sempre, quando vedevamo i loro visi duri, mi sentii sommergere di terrore e di odio. Era troppo tardi per scomparire e non volevo abbandonare la stufa. Il regolamento del lager prescriveva di mettersi sull'attenti e di scoprirsi il capo. Io non avevo cappello ed ero impacciato dalla coperta. Mi allontanai qualche passo dalla carriola e feci una specie di goffo inchino. Il tedesco passò oltre senza vedermi, svoltò attorno a una baracca e se ne andò. Seppi più tardi quale pericolo avevo corso. Raggiunsi finalmente la soglia della nostra baracca e sbarcai la stufa nelle mani di Charles. Ero senza fiato per lo sforzo. Vedevo danzare grandi macchie nere. Si trattava di metterla in opera. Avevamo tutti e tre le mani paralizzate e il metallo gelido si incollava alla pelle delle dita, ma era urgente che la stufa funzionasse, per scaldarci e per bollire le patate. Avevamo trovato legna e carbone, e anche brace proveniente dalle baracche bruciate. Quando fu riparata la finestra sfondata e la stufa cominciò a diffondere calore, parve che in ognuno qualcosa si distendesse. E allora avvenne che Towarowski, un franco polacco di 23 anni, tifoso, propose agli altri malati di offrire ciascuno una fetta di pane a noi tre che lavoravamo, e la cosa fu accettata. Soltanto un giorno prima un simile avvenimento non sarebbe stato concepibile. La legge del Lager diceva: mangia il tuo pane e, se puoi, quello del tuo vicino, e non lasciava posto per la gratitudine. Voleva ben dire che il Lager era morto. Fu quello il primo gesto umano che avvenne fra noi. Credo che si potrebbe fissare a quel momento l'inizio del processo per cui noi, che non siamo morti, da Häftlinge siamo lentamente ridiventati uomini. Arthur si era ripreso abbastanza bene, ma da allora evitò sempre di esporsi al freddo. Si assunse la manutenzione della stufa, la cottura delle patate, la pulizia della camera e l'assistenza ai malati. Charles ed io ci dividemmo i vari servizi all'esterno. C'era ancora un'ora di luce. Una sortita ci fruttò mezzo litro di spirito e un barattolo di lievito di birra, buttato nella neve da chissà chi. Facemmo una distribuzione di patate bollite e di un cucchiaio a testa di lievito. Pensavo vagamente che potesse giovare contro la vitaminosi. Venne l'oscurità. Di tutto il campo la nostra era l'unica camera munita di stufa, del che eravamo assai fieri. Molti malati di altre sezioni si accalcavano alla porta, ma la statura imponente di Charles li teneva a bada. Nessuno, né noi né loro, pensava che la promiscuità inevitabile coi nostri malati rendeva pericolosissimo il soggiorno nella nostra camera, e che ammalarsi di difterite in quelle condizioni era più sicuramente mortale che saltare da un terzo piano. Io stesso, che ne ero conscio, non mi soffermavo troppo su quest'idea. Da troppo tempo mi ero abituato a pensare alla morte per malattia come ad un evento possibile, e in tal caso ineluttabile, e comunque al di fuori di ogni possibile nostro intervento. E neppure mi passava per il capo che avrei potuto stabilirmi in un'altra camera, in un'altra baracca, con minor pericolo di contagio. Qui era la stufa, opera nostra, che diffondeva un meraviglioso tepore. E qui avevo un letto. E infine, ormai, un legame ci univa. Noi, gli 11 malati della Infektions Abteilung. Si sentiva di rado un fragore vicino e lontano di artiglieria e a intervalli un crepitio di fucili automatici. Nell'oscurità, rotta solo dal rosseggiare della brace, Charles, Arthur ed io sedevamo, fumando sigarette di erbe aromatiche trovate in cucina e parlando di molte cose passate e future. In mezzo alla sterminata pianura piena di gelo e di guerra, nella cameretta buia, pullulante di germi, ci sentivamo in pace con noi e col mondo. Eravamo rotti di fatica, ma ci pareva, dopo tanto tempo, di avere finalmente fatto qualcosa di utile. Forse come Dio, dopo il primo giorno della creazione.